Allora, il Consiglio dei Ministri ha approvato ulteriori misure in aiuto al turismo e alla cultura, settori duramente colpiti dalla diffusione del coronavirus e dai provvedimenti adottati per contenere il contagio. Così il ministro per i beni e le attività culturali per il turismo, Dario Franceschini, al termine del Consiglio dei Ministri, che ha varato un decreto legge per sostenere, tra gli altri, i lavoratori e le imprese del settore turistico e culturale. Questa era una cheat che ho preso dal sito del MIBAC. Ma neanche Fred, nessuno dei due capisce molto di legge, quindi Assolutamente. assolutamente no. Quindi per darci una mano abbiamo chiamato un avvocato. Attenzione, diamo il benvenuto all'avvocato Emanuela Teodora Russo, che è specializzata in diritto della musica e da anni è impegnata in associazioni di categoria e società di collecting a tutela dei musicisti. Ciao Ciao Emanuela. Manuela. Ciao Virginia, ciao Fred. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te, benvenuta e ti ringraziamo per il tempo che ci stai concedendo. Sappiamo che in questi giorni sei impegnatissima e in mille Grazie a voi attività. per l'invito. No, Grazie. grazie a te, insisto. Senti, siccome appunto hai tutti questi impegni, non ti ruberemo troppo tempo e andrei diretta al punto con un domandone. Ci aiuteresti a fare una panoramica sulla situazione attuale dell'industria culturale e su cosa è stato messo in campo dallo Stato per sostenere questa industria e in generale come si sta muovendo il ministro Franceschini a riguardo? Sì. Allora, la situazione ovviamente è critica, è sotto gli occhi di tutti e ce ne rendiamo conto. Allo stesso modo, però, non possiamo non riconoscere che in un qualche modo ci sia stato un'attenzione un po' maggiore rispetto a quella del passato, in cui forse probabilmente si ignorava completamente questa categoria, che è quella dei lavoratori dello spettacolo e dell'industria culturale tutta. Nel decreto, oltretutto, vi parlo del Cura Italia perché in realtà le anticipazioni a cui fate riferimento adesso, insomma, delle ultime ore di Franceschini, non sono ancora state tradotte in un decreto che è comparso in Gazzetta Ufficiale. Quindi, da buon avvocato, fino a quando non li vedo in Gazzetta ancora, Non esiste assolutamente. esatto, non mi esprimo pro o contro, in un qualche modo, certo. Prende a riferimento anche quello, però ancora non sono misure definitive. Però comunque sono sulla stessa scia di ciò che più o meno è stato già inserito in un decreto che è il Cura Italia. Le misure sono di diverso tipo, ci sono misure a sostegno dei singoli lavoratori dello spettacolo, quindi musicisti, attori, artisti, autori, maestranze, che non dimentichiamo sono dietro le quinte ma sono fondamentali e basilari, come sono Assolutamente. state messe a punto delle misure e dei fondi speciali per le industrie dello spettacolo e quindi settore cinema, settore discografico e tutti i vari aspetti che riguardano la parte più imprenditoriale, insomma, di questo settore. Parliamo di misure di diversi svariati milioni di euro. Adesso in quest'ultimo decreto che ancora non è stato approvato ci sono stati degli ulteriori aumenti, ma andrei un po' cauta fino a quando appunto non li vediamo firmati, ma abbiamo sia delle misure che sono assimilabili a quei bonus di 600 euro per lavoratori dello spettacolo con determinati requisiti contributivi e di reddito, come dei fondi emergenza per organismi di spettacolo, cinema e audiovisivo che sono stati in realtà deliberati qualche giorno fa e vanno a coprire anche ciò che non è stato in questi anni finanziato dal FUS, che come forse saprete il Fondo Unico dello Spettacolo andava a finanziare un determinato tipo di musica e di industria culturale. Quindi in realtà le misure ci sono, possiamo recriminare forse un po' la lentezza e la mancanza di aderenza alla realtà a volte, però siamo anche qui per far notare ciò che non va. Ecco, quindi il lavoro di questi giorni, come ho avuto modo di dirti, è proprio questo, cercare di raccogliere rappresentanza dal basso e portarla nelle sedi opportune e istituzionali. Assolutamente sì, io ho letto anche Sì. questo articolo che è uscito su Rockit, dopo l'esternazione di Conte. in cui Simone Stefanini scrive, beh sì, ne parleremo, in cui Simone Stefanini scrive: non ci vuole un grande matematico per capire che 50 milioni su 55 miliardi è un'elemosina, un contentino che non va ad aiutare in alcun modo strutturale tutti i lavoratori dell'arte e della cultura in Italia. Solo per quest'estate Assomusica ha stimato perdite nel settore musica per 350 milioni di euro, e stiamo parlando di 3-4 mesi, al netto delle perdite di teatri, cinema, tv, spettacoli in generale, serie e film rimandati, show televisivi chiusi, spettacoli teatrali serrati, tutti i lavoratori del settore a casa senza alcun aiuto, finché una sera arriva Conte e ci tratta come gli amici simpatici. Secondo te, dato tutto quello che ci siamo detti, quali sono le mancanze delle misure che sono state messe in atto fino a questo momento, e anche delle prospettive che sono state date da questo nuovo disegno di legge? Allora, per non voglio rincalare la dose rispetto a quello che dice Stefanini, ma oltre alla sua musica dobbiamo tenere conto di tutto un settore che in realtà va a ricaduta rispetto alla mancanza degli eventi, ossia il primo, la prima conseguenza della mancanza degli eventi dello spettacolo dal vivo è i lavoratori della musica dal vivo e dello spettacolo in generale sono fermi e saranno fermi chissà ancora per quanto. Ma c'è una seconda ondata, ovvero tutti i diritti derivanti dallo sfruttamento delle opere, della cultura in quegli eventi. Mi spiego, se la mia opera musicale viene eseguita durante un pubblico evento, e io ad esempio sono anche l'artista che la interpreta in quel caso, adesso mi si è fermato l'introito derivante dal cachet di quell'evento, ma fra un anno non percepirò neanche il mio provento dallo sfruttamento di quell'opera che avrei avuto durante quell'evento. Quindi le conseguenze, e non volevo fare insomma la pessimista della situazione, sono attuali, ma non possiamo non pensare anche in prospettiva, perché oltre a queste perdite stimate abbiamo una perdita ad esempio delle società di collecting adesso almeno di un terzo rispetto al fatturato dello scorso semestre, anzi dei primi 4-5 mesi, e anche per quanto riguarda lo streaming, che è ciò su cui si sono buttati tutti, ci sono dei grandissimi down. Quindi è davvero, è un po' la punta dell'iceberg quello che dice Stefanini, perché è nel qui e ora. Se pensiamo fra un anno, questa è la prospettiva. Quindi è necessario pensare non solamente a gestire questa emergenza, che poi sai, emergenza, ormai è 2 mesi che siamo così, le emergenze solitamente sono contingenti, invece qua non si può più parlare forse di emergenze, bisognerebbe parlare di misure per la ripartenza. In questo senso ancora non vedo una grande organicità e una grande sistematicità in quello che è stato fatto nelle nuove proposte, quelle di cui insomma stavi parlando tu prima del ministro. Abbiamo visto un po' un allargamento del bacino degli aiutati, con l'abbassamento di contributi, con l'abbassamento di soglie di reddito. Questo è proprio per venire incontro alle esigenze anche dei più piccoli, e che per un modo o per l'altro possono essere stati esclusi dalla prima tornata. Okay. Quindi la vedo una certa speranza, però se vuoi la mia opinione mia, bisognerebbe allargare il discorso non solamente alla cultura, all'essere un musicista nello specifico o a far parte dell'industria culturale, ma bisognerebbe fare un discorso di essere cittadini e di pensare al futuro generale del nostro paese e non solamente a quello di questa specifica industria. E questo lo dico come una grande presa di coscienza collettiva. Non vogliamo tornare a come era prima, perché prima non andava bene. Cioè, se tutti questi scheletri nell'armadio stanno venendo fuori ora, facciamoci due domande, e non possiamo darci le risposte di 6 mesi fa. Certo, ma dobbiamo darci nuove risposte. Quindi il mio, quello che auspico è che questa sofferenza non sia inutile, che ci si renda conto che si può avere accesso a un welfare, ad esempio, se si contribuisce in un certo qual modo anche allo Stato. Ciò detto, non possiamo non ignorare il fatto che ci sia anche una scarsa considerazione della cultura tutta in Italia, e questo è innegabile, purtroppo, sì. E sta a noi. Io sono positiva e propositiva in questo, sta a noi capirlo, prenderne atto, fare autocritica e andare avanti a barra dritta. Tu hai parlato di welfare in questo momento, a differenza di altri paesi, parlo di paesi dell'Unione Europea, in Italia sembriamo essere un po' indietro quanto a welfare e quanto anche a considerazione nei confronti dell'industria culturale e della cultura in generale. Siamo ancora un po' paleolitici in questo. Mentre ci sono delle possibilità di supporti dati da privati e di fondi. Che sono anche parte dell'ambito di cui tu ti occupi. Ci puoi dare un overview di che cosa possono essere, cioè, un musicista o un lavoratore dell'industria culturale in difficoltà, a che misure può accedere da parte di privati? Assolutamente, assolutamente, velocissima. Posso dirti che per fortuna ci sono anche delle misure messe in atto da privati a sostegno dell'industria tutta. Possiamo vedere delle misure a sostegno delle aziende, chiamiamole, insomma, delle etichette discografiche, dalle società di collecting di produttori fonografici come possono essere AFI o It's Right. Possiamo trovare delle misure di sostegno dei singoli musicisti da società di collecting come il Nuovo Emae, che ha pubblicato dei bandi a sostegno dei musicisti che si sono visti cancellare o sospendere occasioni di lavoro, dove per occasioni di lavoro abbiamo il concerto ma abbiamo anche la didattica, ad esempio. Come l'ultimo fondo, l'ho visto oltretutto qualche giorno fa, che è stato creato da Spotify in collaborazione con Music Innovation Hub, che va addirittura a creare un fondo speciale su donazioni volontarie degli utenti di Spotify e con un coefficiente di donazione anche di Spotify, mettiamolo così, a sostegno di tutte quelle categorie residuali e forse non prese in considerazione o comunque escluse da altri fondi statali. Quindi in realtà la partecipa anche SIAE ha messo in campo altre misure che saranno approvate nei prossimi mesi. Le misure anche dei privati ci sono, e questo secondo me è ancora più indicativo del fatto che bisognerebbe rendersi conto che non solamente in una situazione di emergenza, quando proprio ci vediamo stretti nell'angolo, bisogna cercare di contribuire a realtà di questo tipo che invece costantemente fanno attività a sostegno della categoria. E quindi ritorna sempre, avrai capito che da questo punto di vista forse sono un po' radicale, che non ci si può svegliare solamente quando si ha bisogno, ma è necessario contribuire. Queste realtà private lo stanno facendo, chi più chi meno, non siamo qua a discutere quello, ma lo fanno grazie al sostegno dei lavoratori. Quindi attiviamoci, questo è il mio senso. Assolutamente. Super condivisibile, direi. Ma una domanda che invece forse si allontana un attimo da tecnicismi e vado più diciamo sul filosofico. Dal momento che hai seguito l'evolversi della situazione, delle proposte messe in campo, ne hai vista qualcuna che ti sembra particolarmente convincente come via d'uscita e tu quale via d'uscita ti auspichi per il mondo della cultura e della musica di cui facciamo parte? Ho sentito male l'inizio, ma comunque insomma ho capito cosa mi stai chiedendo. E, per me la via d'uscita è la formazione. Mi auspico una formazione di tutti i lavoratori, di tutti i professionisti. Formazione e consapevolezza sin dalle prime generazioni, perché è solamente formando le prime generazioni che si potrà sperare di raccogliere qualcosa negli adulti del domani. Ne sono convinta. Il problema qua in Italia è ovviamente culturale. Dopo ci sarà Enrico Gabrielli e in questi giorni insomma, ho seguito anche quello che, le sue dichiarazioni. È necessaria forse una presa di coscienza e secondo me la via è quella. La via è quella della consapevolezza e della formazione degli adulti del domani. Spero in questo, perché se non c'è la formazione, non c'è la cultura e non c'è l'istruzione, possiamo fare armi e bagagli e ritirarci sui monti, perché non la vedo molto bene. Quindi la mia speranza è questa. D'accordissimo con te e ti chiederei l'ultimo aiuto, siccome il prossimo pezzo che mandiamo in onda l'abbiamo acquistato, si chiama Lost in the Desert ed è proprio il brano collegato al progetto di cui Sì, parlavi tu. sì, sì. A questo brano ha contribuito anche Enrico Gabrielli, che è il nostro prossimo ospite, ma siccome la sai meglio tu che cos'è questo progetto, ti va di aiutarci a introdurlo? Il progetto che ha... Quello di Spotify e di Music Innovation Hub, credo che sia collegato a quello. Assolutamente sì, praticamente Spotify in collaborazione con decine di associazioni di categoria dell'industria culturale nel mondo ha creato questo fondo speciale in cui per ogni euro donato da un singolo utente, da un singolo consumatore a una specifica associazione ne donerà un altro per andare a incrementare questo fondo. Ognuna delle associazioni ha previsto dei propri criteri, dei propri requisiti per l'accesso a questo fondo speciale, quindi l'invito è di donare, se possiamo in un qualche modo condividere, e a chi invece può essere un avente diritto di questo fondo, andate su Spotify Covid, troverete tutte le associazioni di riferimento e anche tutti i requisiti per poter fare domanda, che aprirà dal 18 maggio in Italia. Ok, fantastico, io ti ringrazio tantissimo e sei stata molto più brava di noi anche nell'introdurre il pezzo che stiamo per mettere, e ti auguro una buona giornata. Ciao Manuela. Ciao Manuela. Ciao, ciao. Ciao. Anche dove il vento le sradica, poi ti chiamerò se il deserto è una terra arida, tu sei tutto quello che ho. Yeah. qua. Mi senti? Mi sentite, sì? Sì, sì, molto bene. Tu ci senti? Bene, bene. Sì, sì, vi sento, vi sento. Ok. Ciao Enrico, il pezzo che abbiamo appena ascoltato è Lost in the Desert, che è un pezzo collaborativo a cui hai partecipato anche tu. E, ci vuoi raccontare com'è nata l'idea di questo pezzo e come si è sviluppata e a che pro, insomma, che finalità ha questa operazione? È partito tutto da Rodrigo d'Erasmo, ovviamente lui prende il merito del principale di tutta questa operazione qua. Io sono stato chiamato da lui i primissimi giorni di blocco regionale, perché io vivo a Torino da un anno in realtà, in quei giorni dovevo tornare anche a Milano per fare delle cose con i carico, ci colse in fallo questo lockdown, e proprio subito dopo, pochi giorni dopo, Rod mi ha proposto di fare questa cosa in sharing, con questo vasto orizzonte internazionale, perché ci sono, oltre che degli artisti italiani piuttosto noti, ci sono anche Jonas Poliswoman e Alain Johannes. E poi niente, mi mandò in realtà un primo embrione di brano, che era ancora un piccolo pezzetto di brano su cui ho fatto sopra delle parti con i pochi strumenti che mi erano rimasti, cioè un fatto traverso, perché poi tutta la mia roba è rimasta a Milano. Tutta. E qua a Torino ho soltanto un flauto e un sassofono scassato, quindi minimalista. Sì, di necessità e virtù. Poi mi è capitato di registrare in questi giorni sempre un po' di cose per altri, e più o meno usavo, insomma, i mezzi che ho, poi con limiti si fanno, ovviamente si riesce, se la cava sempre comunque. E quindi, insomma, con quello che avevo ho fatto una prima stesura molto semplice, insomma, e poi dopo il pezzo me lo mandava piano piano che progrediva e sentivo quello che stava venendo fuori, e insomma alla fine è venuto fuori un pezzone, come si dice. Molto bello. E i proventi di questo pezzo, tra l'altro, abbiamo capito che vanno a tutti quei lavoratori dell'industria culturale che non hanno un'esposizione pari a quella che può avere un musicista o qualcuno che sta in prima linea, giusto? Sì, esatto. Vanno ai nostri fratelli diretti, perché comunque noi abbiamo soprattutto le persone della mia generazione e il mio tipo di iter, abbiamo molto a che fare con delle persone che non si vedono sul palco, ma che in realtà poi hanno un ruolo fondamentale nella vita gestionale di una band. Insomma, da stage manager, tecnici del suono, a backline, a tecnici luci, insomma, ce ne sono di tipologie molto diverse, molto specializzate, molto specifiche, per cui sono dei mestieri molto delicati. In più adesso hanno questo problema che sono anche invisibili, per cui abbiamo pensato di fare questa cosa qua, ma spero che se ne facciano anche altre, insomma, perché alla fine per quel poco che può fare è comunque una cosa molto semplice da fare ed è molto utile, insomma. Certo. Tu hai scritto un appello da poco che è stato pubblicato su Rolling Stone, in cui scrivi: adesso che è stata allentata un po' con la libertà di movimento della gente, le persone che vengono nella piazza a sentire la nostra esibizione potrebbero aumentare esponenzialmente. Avrebbero pure ragione, perché noi siamo l'unica attrazione live di tutto il centro storico, parlando dei concerti che hai tenuto per i primi 2 mesi di lockdown. E poi scrivi: la domanda che ci poniamo ora è: ha senso confortare la gente in un momento difficile come questo, alimentando un pizzico di autostima con un po' di applauso, quando poi il riconoscimento del nostro ruolo è sparito dai radar delle istituzioni? Ci puoi fare una panoramica su in che modo hai vissuto questo lockdown e in che modo è cambiato poi anche il tuo pensiero, che magari all'inizio era un po' più ottimista e adesso ha dato spazio ad altri sentimenti, insomma? Io oscillo tra l'essere sincero con gli altri e l'essere sincero con me stesso, perché si fa fatica a essere sinceri e a far conglivare le cose. C'è un problema che ho ravvisato, che in questa fase di stress collettivo non è bello sentirsi dire che andrà male. E non è bello che ognuno di noi tiri fuori la parte, come dire, pessimistica della faccenda. Però non è neanche giusto non dirlo. Per cui in realtà io, per stare comunque inquieto a vivere a casa, comunque una situazione domestica in realtà allegra, perché ho molti bambini con i miei nipotini e mia figlia e mia cognata e mia moglie, per cui insomma sono un nucleo familiare un po' ampio, con un sacco di bimbi che comunque aiutano molto a passare il tempo. I bambini alla fine hanno questo ruolo bizzarro di depuratori dell'aria, insomma. Che tanto ci fanno divertire, tra l'altro. I bambini. Era una semicit. Sì, lo so. La privacy non so più cos'è, in realtà, tra l'altro, perché è complicato. Vabbè. Comunque, fondamentalmente, insomma, io mi sono astenuto da esprimere i miei pareri in maniera netta in casa, a parte i primissimi giorni in cui sono proprio scoppiato di testa, come credo tutti quanti, proprio mi sono quietato e mi sono semplicemente detto che, come credo tutti, insomma, attendiamo, asserviamoci a questa emergenza, come si chiama, e facciamo quello che serve. Noi nel nostro abbiamo fatto quello che hanno fatto molti musicisti, quello di suonare per i vicini, insomma. Abbiamo questa fauna di vicinato che abbiamo scoperto, come credo che tutti quanti noi ci siamo accorti di avere dei palazzi, di avere dei condomini, e l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto quotidianamente, a parte quando doveva, l'abbiamo fatto sempre, perché comunque ci dava anche un ritmo a noi alla giornata. Mm-hmm. E tolto questo, ok, però io in cuor mio, per fare tutto questo e per portarlo avanti con il migliore dei modi, da civile, da cittadino, da questa cosa, termine civile che viene usato un po' a sproposito ormai, io ho bisogno di una scadenza. E quindi ho bisogno di sapere che questa cosa finirà e quando finirà. Non è una cosa che il mio cervello né la mia psiche è in grado di tollerare, è uno stato di apertura e chiusura di rubinetto di emergenziale continuo, insomma, anche il paventare che forse ci sono ritorni drammatici di pandemici, eccetera, così, nel periodo autunnale, forse, eccetera. Il vaccino intanto è un messia, bisogna che ognuno se lo tocca fuori dalla testa, che sono operazioni vaccini che possono durare 18 mesi, anni, cioè, non è la soluzione. Mm-hmm. Però io quello di cui ho bisogno per non andare al di là in qualche maniera della cortina della razionalità è che mi si impongano mi venga detto che si fa fino qui. Sì. Perché non c'è, cioè, perché credo non sia possibile, perché poi si va oltre. Non voglio per forza citare Giorgio Agamben, che comunque credo sia diventato, insomma, l'anello di distinzione tra chi pensa in un modo e chi pensa in un altro, però la vita nuda, che lui dice, è insostenibile per chi si occupa di arte. Fino a un certo punto lo puoi simulare, fino a un certo punto la puoi interiorizzare, ma poi non esiste, non ci fai niente, cioè non è un motivo per andare avanti. Senti, noi citavamo prima anche Conte e il suo discorso in cui ha menzionato gli artisti, ha detto che ci fanno divertire. Anche nel tuo articolo parli della considerazione che in Italia c'è del mondo dell'arte e della cultura. Secondo te come siamo messi? Cioè, che polso hai della situazione per quanto riguarda la considerazione? Io non vorrei anche aver fatto un errore, in realtà quando ho scritto quella cosa, in realtà era più una specie di dichiarazione di intenti, quindi le dichiarazioni di intenti hanno spesso una marma a doppio taglio, perché non è una dichiarazione di intenti personale, perché ormai poi ognuno fa isola, come disse John Donne, in realtà un uomo non è un'isola, in realtà siamo diventati tutte delle isole, e non è vero che non lo siamo, sono tutte delle isole, perché ognuno fa un po' caso a sé, cioè. Io credo che, se devo ragionare un pochino più, in maniera un po' più estesa, forse è il caso di farlo. Il nostro governo è uno dei tanti governi che va un po' dietro a una cosa che non sa neanche bene esattamente cos'è, cioè non sanno assolutamente neanche loro che cosa fare, non hanno di pallida idea. E temo che comunque la questione culturale in generale sia sempre comunque percepita come accessoria in tutti i governi del mondo. Che poi ci siano delle strutture di sussidio, di supporto, è un altro discorso, però io quello che dico è giusto pensare alla questione burocratica che ci fa sostentare, cioè dei soldi, insomma, banalmente capire come fare per avere dei soldi. E quello si sta comunque già facendo, in qualche maniera ci sono dei tavoli di discussione, ci sono delle cose che stanno accadendo, ci sono delle cose che avvengono, cioè c'è la musica che gira, c'è nuova musica, proprio che riguarda la musica. Però è una cosa del sentimento che però nessun tecnocrate può mai raggiungere, cioè la cultura non fa parte del mondo governativo, di statuto, perché la cultura nel senso inversivo del termine non può andare a nozze con un establishment governativo, è proprio un controsenso. Quindi quello che dico è che però invece lo establishment governativo dovrebbe mettersi da parte per far venire, insomma, per far salire sullo scanno proprio delle persone che tecnicamente a volte non hanno mai avuto nessun rapporto con le istituzioni, ma che magari in questa situazione qua potrebbero dare il meglio di sé. Non so se riesco a spiegarmi, però per assurdo servirebbe un'invenzione, cioè, e non che purtroppo il governo non credo che potrà mai darci, insomma, cioè dovrebbe fare spazio, ecco, questa è l'unica cosa che credo dovrebbe fare, cioè di togliersi di lato, mettersi da parte e non affannarsi a trovare soluzioni che non troverà, perché non, anche proprio sulle questioni tecniche base non ci capiscono niente, purtroppo, cioè non credo ci sia neanche malizia proprio, non conoscere quello di cui si sta parlando. Ma non ci arriveranno mai, ma non, è inutile neanche a protestare, non so come dire, no? cosa vogliamo parlare di Franceschini, ma, povero, ma è un borghese che avrà visto i film di Antonioni, ma non credo che abbia la più pallida idea di cosa significa anche banalmente l'arte contemporanea, cioè nelle forme più recenti. Per cui non lo so, cioè quello che serve però è una cosa almeno consolatoria, cioè o consolatoria o un gesto forte, insomma. Quello che mi riferivo l'articolo precedente era proprio alla soglia del 26 aprile, quando ci fu la prima discussione, in cui non ci fu neanche un accenno, niente, al panorama culturale. Adesso se escono fuori frasi così, insomma, non è consolatorio, però dici, quanto ma meno... è anche consolatorio. Non lo so, in realtà io non ho alcuna fiducia, scusatemi se sono un po' diretto, ma non ho nessuna fiducia, credo solo esclusivamente nella risurrezione del singolo, dell'individuo, perché siamo stati tutti quanti molto valorizzati, per cui tanti singoli individui pensanti che mantengono alta la striscia della critica e che quindi cominciano a rendersi conto che comunque portare una mascherina non è eticamente corretto, perché e anche distanziarsi fisicamente non è eticamente corretto, certo. Poi che sia sanitariamente corretto va bene, mm-hmm. Però bisogna che la gente lo capisca questo, che servono per ragioni sanitarie, ma non servono per ragioni etiche. L'etica non è una roba che puoi eliminare così, non puoi considerare una cosa così, cioè io passo con mia figlia e c'è un signore, spesso capita, che il signore che ti guarda con occhialino e mascherina e non sai se ti sta guardando per rimprovero, perché magari mia figlia non ha la mascherina, che ha 2 anni, ma... oppure perché sta facendo un sorriso, ed è un problema immenso, cioè è un problema immenso, questi sono problemi giganteschi, da qui non so, bisogna presto uscirne fuori, però con tutta questa, cioè ognuno di noi deve avere una sua forma di resistenza, deve un attimo tenere un pochino più forte, rendere un po' più cara la pelle, insomma, senza nessun tipo di battaglia, perché comunque quello che ci viene richiesto è tanto, sì, quello che ci verrà richiesto ancora di più, e in cambio sostanzialmente non ci viene dato niente, nulla, cioè esatto, è un gioco di outdance che è completamente sbilanciato. Assolutamente d'accordo, ma nonostante questa considerazione sull'isolamento che è, è giustissima, tra l'altro. Ci sono in ogni caso degli esperimenti di collettività o comunque dei tavoli condivisi, di pensiero condiviso, di cui tra l'altro tu fai anche parte di alcuni di questi. Ad esempio hai citato Nuova Musica, e ci sono molti progetti che stanno nascendo, si stanno sviluppando in questo periodo e che cercano di mettere in condivisione quantomeno delle idee per provare dal basso a trovare quantomeno un bandolo della matassa. Tu hai partecipato o hai visto qualcuno di questi esperimenti che ti ha convinto più di altri? Proprio oggi alle 6 c'è una riunione di Nuova Musica online, in realtà. Mi è arrivata tramite una cara amica che si chiama Laura Newsday, questa cosa poi ho riprovato. Cioè, a più riprese stanno spuntando fuori, perché funziona in una maniera bizzarra, per cui ti arriva una persona che ti fa conoscere la cosa, poi ti accorgi che ce ne sono altri 5 intorno a te che la conoscevano già, e quindi si crea una rete. È uno strano meccanismo nuovo, questa cosa, per me, quello di organizzare questi tavoli online, insomma. Poi ho fatto parte, sono firmatario di un'altra cosa che si chiama La Musica che Gira, che è un pochino più mainstream, forse, chiede proprio specificatamente alcuni punti proprio formali, come ad esempio, insomma, il ridimensionamento dei costi delle esibizioni di qualsiasi tipo da parte della SIAE, cosa che spero avverrà. Cioè, noi ad esempio per due mesi e mezzo praticamente quasi siamo tutti giorni da un balcone, se la SIAE fosse passata sarebbe, insomma, rovinato. Spero che la SIAE sospenda ogni tipo di richiesta di pagamento per insomma, per qualsiasi tipo di esibizione pubblica o privata. Certo. Tipo, e questa radiofonica, ad esempio. Non lo so. Com'è? No, nel nostro caso radiofonica. Ci facciamo notare. Certo, ad esempio, sì. Sì, va bene, siamo una radio pirata comunque, quindi dichiaratamente. Benissimo, pirata. Però sì, abbiamo comprato la tua musica su Bandcamp, ci tenevo a dirtelo. Ah, grazie. Sì. E Fred voleva farti i complimenti, tra l'altro. Per sì, il Enrico, pezzo. Volevo farti i complimenti per il pezzo che abbiamo ascoltato prima, che abbiamo dato in onda prima, Matematica Naif, che ti giuro, io non avevo mai sentito nulla di tuo, scusa, non volevo offenderti, ma mi sono trovato, ho detto, cavolo, ma sta roba, cioè, è una roba boh, assurda, cioè, poi tutte le cose che stai dicendo adesso sono qua di fianco a Virginia, che sono, cioè, Virginia può confermare, esaltatissimo. Grazie, no, pensa a te, cosa spunta fuori? Sì. sì, perché io sono una grande fan di Bandcamp, quindi la musica che acquisto la acquisto quasi tutta su Bandcamp, sì. E quindi e in generale di acquistare la musica sono fan. Scusami, ti faccio continuare il tuo discorso. Allora, Bandcamp ha fatto anche delle operazioni di sospensione dei proventi, che sono anche, insomma, apprezzabili queste cose. Sì, sì. Cioè che non prendevano nessuna percentuale, tutto quanto andava al musicista. Oppure, beh, sì, come Bandcamp fa delle cose che sono, sì, sicuramente più, insomma, più gradevoli di altre piattaforme, probabilmente. Sì, insomma. Sì, sì. Però io comunque ho un problema gigantesco in generale con il rapporto con questa strutturazione di mondo che si sta un po' delineando, che dove anche i valori in qualche maniera si spostano. Cioè, su dove anche la tipologia proprio di rapporto con la musica si sta spostando. Vabbè, è giusto che esista tutto questo, è giusto che adesso si aprono tutti quanti i vari portali, streaming, e il cinema apriranno il loro canale, tipo il Beltrate, insomma. È giusto tutto quanto questo, purtroppo non sarà sostitutivo, certo. Mai. Perché la tecnologia, cioè, perché quello che ci è successo in questo momento qua è successo in un momento in cui il sistema sociale così complessivo di tutto il mondo non è purtroppo molto più avanti rispetto alla tecnologia. La tecnologia in questo momento non è di livello. Cioè, io parlo anche banalmente dell'ipotesi di fare esperienze immersive, di concerti online o streaming o cose di questo genere qua, non so come dire. Se inventano gli ologrammi domestici, magari forse uno può anche ipotizzare di fare dei concerti di questo genere. Ma l'immersione, l'immersività è ancora al di là da venire, purtroppo, e l'immersione è alla base di ogni tipo di esperienza di ascolto, o anche visiva, o anche teatrale che sia. Assolutamente, e quindi non... anche la continuità. Poi nel senso si trova nel 2050, magari forse poteva essere un, capito, che il mondo si spostava davvero su un mondo virtuale, ma poteva comunque essere interessante come, come, di, come alternativa. Ma in questo momento non c'è un'alternativa, cioè tutto quello che noi possiamo fare nel 2020 di profondo o comunque di esperienziale, di coinvolgente, di immersivo, lo puoi fare solo esclusivamente in una dimensione vera. Non c'è niente da fare, cioè non c'è nulla da fare. Poi ci affanniamo tutti quanti, io incluso, a fare un sacco di streaming, di robe, ci chiedono di fare, io faccio anche delle performance, dei giochi, cioè, lo fai, certo, perché devi comunque occupare il tempo, il cervello, la tua coscienza, perché sennò ti spara un ginocchio, buonasera. Però è tutto un surrogato, tutto un palliativo, cioè è bene anche questo che sia chiaro per tutti quanti gli artisti, certo, insomma. Certo. Realismo, giustamente. Sì, non c'è nessun entusiasmo dietro. Ogni volta che mi propongo di fare una cosa online, cioè sì, Salone del Libro di Torino, tutto quanto online, cioè è una nota comunque di tristezza per me, non è una cosa, come dire, una avanguardia, cioè non è una innovazione, è un palliativo, un surrogato che fai per non fa, per smettere di fare le robe, insomma, a volte si perde un po' questa cosa qua, purtroppo, però sempre, insomma, vabbè, non sono una persona molto ottimista, mi rendo conto. No, ma guarda che nessuno ti ha richiesto di essere ottimista. In realtà, Enrico... non lo sono, peccato, perché un'altra cosa che mi fastidisce è questo tempo che passa, che in realtà, appunto, io sulla scadenza riesco a ragionare e riesco a riuscire a essere molto, molto fiducioso, ma in questo momento non ho capito, cioè... Se mi dicono che a ottobre passa, si torna a baciarsi e abbracciarsi come prima, io allora tengo botta e sono la persona più entusiasta di fare questa vita qua. Ma sì. se qualcuno mi dice questo, io non ce la posso fare. Poi lo so che la scienza è incerta. Sì, sì, una però mi viene a dire una cosa. Sì. La scienza anche... Siamo sicuri che la scienza sia la migliore forma di governo? Chiedo, cioè, beh, siamo tutti convinti di questo. Enrico, io condivido molto il tuo scetticismo in generale, quindi insomma, anzi grazie per le parole che hai detto anche prima, perché appunto mi hanno molto colpito e in particolare adesso che insomma dici quasi ti scusi per essere pessimista, in realtà insomma ti sono vicino, nel senso che io da molto vicino anche qua a Milano seguo un po' le operazioni, insomma, di anche aiuti dell'amministrazione, insomma, di Milano ai cittadini, e in realtà noto come le mancanze sono tante e c'è bisogno, l'amministrazione ha bisogno di un supporto dal basso, di gente che si auto-organizza, altrimenti non ce la fa, e quindi, come tu dicevi prima, insomma, poca lucidità, ecco, per dirla in maniera molto, molto polite, del ministro Franceschini e di altri carichi istituzionali che hanno più potere di noi nel muovere cose, come non darti ragione, e questa cosa qua purtroppo poi ti porta, almeno a me porta, a essere pessimista, cioè non tanto pessimista ma un po' anche insomma realisticamente, esatto, un po' anche realisticamente sì, disilluso e quasi rattristito da questa cosa, cioè in un momento di difficoltà dove le istituzioni dovrebbero essere molto forti e molto solide nel darci anche dei tempi d'uscita, c'è, per quanto capisca che sia incerta tutta la situazione, però è proprio, insomma, quasi ti manca a terra sotto i piedi, ecco. Sì. Ti manca, sì, la terra sotto i piedi, sì. A essere concreti, sì. Io mi spingo anche oltre all'assenza della fiducia nei confronti delle istituzioni, che non posso considerare, non riesco a considerarli dei validi genitori, come in realtà, insomma, questi verrebbero dei genitori che ti proteggono, ma non ce la posso fare, perché i segni in realtà sono dei strani genitori adottivi, non affettivi, in realtà, quelli che ci governano, secondo me. E mancano pure i fratelli, cioè faccio fatica anche con i miei amici più stretti, anche con alcune persone in realtà che sono molto vicine a me a volte, a trovare un punto di condivisione, un parere comune. È molto difficile, per cui in realtà anche su quello è molto difficile riuscire a compattare una linea di pensiero, in più il fatto che non ti puoi neanche raffrontare visivamente, spesso perché è proibito vedersi tutti insieme, cioè, certo. Cioè io sono comunque una persona che la mia vita a Milano, mi è stato proibito di andare a Milano, dove ho tutti i miei strumenti, dove non posso andare perché tecnicamente come musicista io non faccio un mestiere utile al sistema sociale. Incredibile. Quindi non sarei potuto neanche andare a prenderli, insomma. Quindi cioè, manca anche quello, manca proprio tutto, manca tutto, cioè manca, cioè sei rimasto solo l'individuo, soltanto il singolo individuo a cui viene richiesto di fare uno sforzo abnorme. Però quello che dico è che facciamo uno sforzo abnorme, ma che ogni singolo individuo mantenga accesa la testa, insomma, la tenga molto accesa, perché se no facciamo, perché sennò il passo è breve, cioè il passo della cancellazione, insomma, dell'identità è facilissimo, è prossimo, cioè proprio è lì. Ma noi ti ringraziamo Enrico per tutto quello che ci hai raccontato, queste considerazioni, e vabbè, oltretutto magari ci sentiremo più tardi per Nuova Musica, che è un progetto sì, che... Anche voi, cioè, Sì, a me interessa molto capire come si svilupperà questo progetto, così come tutti i progetti di rete, che comunque ci fanno sentire meno isole, anche se, come dici tu, è un momento di sofferenza molto individuale, ma certe modalità di fuoriuscita dalla sofferenza possono e dovrebbero essere condivise, o quantomeno cercare di capire in che modo possiamo supportarci reciprocamente, ecco. Guarda, sono molto il testo è molto molto aperto e molto curioso. L'unico mio problema è che avendo i bambini a casa io ho dei tempi di vita tremendamente difficili, per cui alle 6 ci sarebbe questa cosa che poi finisce e io devo a un certo punto andare perché c'era la pappa, la mamma, la roba, però mi scontro con questo tipo di problematiche qua, però sì, bene che ci siano, insomma, ci vediamo lì. Bene. Grazie mille, ciao Enrico. Grazie mille. Grazie a voi. Buona ragazzi. Giornata. Scusate, ho parlato, straparlato. Ma no. No, eri il nostro ospite, ti abbiamo voluto per questo, volevamo sentirti parlare. Vabbè. Ciao, buona giornata. Ciao. Anche a voi, un abbraccio grande. Ciao. Grande Enrico. Numero uno. Assolutamente. Intanto che mandiamo sotto la nostra colonna sonora di chiusura, e dalla cultura alta passiamo immediatamente. Magari venisse ospite, lo invito adesso. Insomma. Cesare, sappiamo che ci ascolti e che ci segui ogni settimana, quindi sei invitato in una delle prossime puntate, quando te lo diremo, a venire come nostro ospite. Insomma. Sì, allora prima di lasciarvi a Quarantella, Stereo Volante, che è il programma che c'è dopo di noi, volevamo ricordare Ezio Bosso, che è venuto a mancare oggi purtroppo, grandissimo direttore d'orchestra, compositore, pianista, insomma, che tutti ricorderemo, quindi ci uniamo al cordoglio, insomma, chi ricorda Ezio. E vi segnalo un'iniziativa che mi sta molto a cuore, che è la campagna Salva Bloom, per chi non conoscesse, insomma, Bloom di Mezzago, locale storico che dagli anni 80, insomma, supporta la musica indipendente, da cui sono passati artisti famosissimi come Green Day, Nirvana, chi più ne ha più ne mette, insomma, una pietra miliare soprattutto per chi è nella zona di Milano e provincia. E vi ricordo sempre il gran lavoro che stanno facendo le Brigate Volontarie per l'Emergenza nel supportare la popolazione con iniziative di appunto aiuto dal basso. E che dire, vi saluto Virginia, saluto il Mel e la Chicca, che sono qua con noi e stanno dormendo, i gatti di Virginia. Grande partecipazione, esatto, quasi quanto la mia oggi, però insomma ho molto apprezzato ascoltare quello che tutti e due i nostri ospiti di oggi, che ringraziamo ancora, ci hanno voluto dire, perché sono stati due contributi davvero eccezionali che ho anche registrato incredibilmente. Da un certo punto in poi, No, i contributi ce li ho tutti. Okay. Non ho registrato l'inizio, dove abbiamo salutato chi ha vinto il nostro concorsone del Trova l'errore tecnico di oggi, che era nella grafica. E niente, vi salutiamo. Ciao, e mi raccomando, a lavorare. Tutti a lavorare. Bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Ha bisogno di tornare a lavorare. Ha bisogno di tornare a lavorare.